Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko from Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it, che, con la quale potrete ascoltarci in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì vi propone musica registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, dall'inizio della musica dello scorso secolo, diciamo, fino ai tempi nostri. E come sempre accade in questa stagione, come potete sentire, il mio apparato vocale non è ai massimi livelli, rimarrà in questo stato probabilmente fino a marzo, aprile del prossimo anno, per cui niente, pochissime chiacchiere e molta musica quest'oggi, come del resto spero anche le altre volte. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità. Quest'oggi abbiamo una novità da parte di un personaggio un po' particolare, perché in Gran Bretagna è assolutamente osannato, è idolatrato, oserei dire, lui, ma anche il fratello un po' meno recentemente, ma lui è assolutamente una cosa idolatrata, mi sembra il termine giusto. Lui risponde al nome di William John Paul Gallagher. È il terzo, il più giovane di tre fratelli che vedono Paul al di fuori dell'ambiente musicale. Invece Noel, il fratello che con lui ha fondato e sciolto anche nella stessa coppia gli Oasis, e che hanno avuto un successo incredibile, secondo me anche un po' sopra quello che sarebbe i loro meriti, ma questo è un discorso molto personale. Fu proprio Liam a formare una band insieme ai suoi amici di scuola, che si barcamenò per qualche tempo suonando qualche concerto in giro per Manchester, visto che loro vengono appunto dalla Manchester Big Area. E però fu quando Noel arrivò, Noel è diventato poi nel tempo il maggior compositore della band, e quando Noel arrivò si trasformarono in Oasis, era il 1991. Fra un litigio e l'altro dei due fratelli, gli Oasis sono arrivati fino al 2009, anno nel quale il buon Liam ha dato il via a una carriera solista che, come dicevo, gli sta dando enormi soddisfazioni. Lui ha pubblicato in questi anni, dal 2009 ad oggi, tre album dal vivo. Il primo si chiama Unplugged ed è del 2020, il secondo si chiama Down by the River ed è del 2022, Down by the River perché fu suonato un concerto su una chiatta sul Tamigi, e poi questa novità che vi propongo quest'oggi, che si chiama Nebworth 2022. Chi segue le mie trasmissioni, ma anche la musica britannica, sa che i concerti di Nebworth sono praticamente una consacrazione dell'artista o della band che è sul palco. ed è appunto una consacrazione che è avvenuta in due giornate lo scorso anno da parte del pubblico verso Liam Gallagher, e il 3 e il 4 giugno dello scorso anno appunto radunò un sacco di decine di migliaia di persone in queste due giornate per ascoltare la sua musica e la sua band. Fra l'altro c'è da dire che era già uscito a nome Oasis, quindi con il fratello, una registrazione di Nebworth del 1996, questo qualche anno fa. Dopo tutto questo popò di presentazione, andiamo ad ascoltarci Liam Gallagher con la sua band. Il pezzo che ho scelto per voi, uno dei classici però degli Oasis, si chiama Rock and Roll Star. Cause in my mind, my dreams are real, and now you can see. Siamo a Nebworth, posto famosissimo per accogliere sempre una marea di fans in tutti i concerti che vengono organizzati in quell'immenso parco che è sito non troppo lontano da Londra e che ha visto appunto sul palco Genesis, Dire Straits, Pink Floyd, Robert Plant, Queen e tanti altri. Un giorno faremo anche uno special su questo posto che mi dicono sia molto bello già di suo, poi quando ci sono i concerti forse c'è anche un po' troppa gente. Comunque questo era Rock and Roll Star Liam Gallagher. E ho preso spunto al volo da questo brano che ho scelto appositamente per farvi ascoltare in questa prima parte di Città Fujiko Live Club una serie di brani che hanno rock and roll nel rock, la parola, chiamiamola così, rock and roll nel titolo. E ancora una volta, come succede in questi casi, non andrò ad indagare sul testo o a tradurvi i testi, potete farlo benissimo da soli, ma giusto così per ascoltare un po' di musica di questi brani che hanno rock and roll come nel titolo, per meglio dire. Rock and roll, due punti, ballo e musica da ballo, affermatesi intorno al 1955 negli Stati Uniti e diffusisi poi in Europa e nel resto del mondo. Questo non lo dico io, ma lo dice la Treccani, un po' più altolocato di chi vi sta parlando, ed è appunto questo che è la spiegazione che la Treccani dà di rock and roll. La prima canzone che è diventata famosa nell'ambito rock and roll, la conoscete tutti, si chiama Rock Around the Clock, incisa in precedenza ma portata al successo da Bill Haley e His Comets. Per i più attempati, diciamo così, di noi, la ricorderanno certamente, perché era la sigla di apertura di quella serie televisiva che si chiamava Happy Days. E quindi andiamo di rock and roll, ma si fa per dire, parola appunto che ha multipli usi e che nel caso di Liam Gallagher, appunto Rock and Roll Star, risponde a una domanda che i Byrds si facevano già nel 1967 e che dice più o meno così. So you wanna be a rock and roll star? Direi che come primo pezzo di concerto è abbastanza esplicativo di quello che arriverà dopo. Questa è la Rock and Roll, quella delle Zeppelin naturalmente, brano di apertura, come vi dicevo, del loro concerto immortalato in un film che si chiama The Song Remains the Same e nell'apposita soundtrack che uscì originariamente nel 76 in formato 2 long play, ma poi è stata ripubblicata nel 2007 in formato 2 CD con un sacco di brani aggiunti. Il tutto registrato al Madison Square Garden di New York City il 27, 28 e 29 luglio del 1973. In precedenza erano i Byrds, Roger McGuinn ha introdotto la So You Want to Be a Rock and Roll Star, pezzo famosissimo che è stato rifatto in mille salse. La registrazione arrivava dalla Royal Albert Hall di Londra ed era del 1971. I Ramones hanno diversi brani con la parola rock and roll inserita nel titolo e questo è uno di quelli. Yeah, well, you know that some of us here tonight still remember. She was just 5 years old. You know this, nothing happened at all. Every time she put on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. One fine morning she puts on a New York station and she couldn't believe what she heard at all. Old. You know there's nothing happening at all. Two TV sets, two Cadillac cars on. It ain't helping us at all. Not at all. One time more she heard her New York station. She couldn't believe what she heard at all. Not at all. Despite the amputation, you could dance. I'm gonna go. A mio avviso uno dei migliori album live di tutti i tempi, si chiama non a caso Rock and Roll Animal, l'animale in questione era Lou Reed, anno di grazia 1973, Academy of Music di New York City. Il concerto, anzi questo album, si conclude con questa fantastica rock and roll, 10 minuti di musica altamente spettacolare. E non ho mai capito perché questo concerto sia uscito in due occasioni diverse, nel senso che uscì prima questo Rock and Roll Animal, qualche tempo dopo uscì un altro... Scusate, uscì un altro dischetto che, anzi era un vinile all'epoca, che si chiama semplicemente Live, ma è stato registrato sempre nello stesso concerto. Mi piacerebbe molto che ci fosse una ristampa come si deve e riuniti i due album nell'ordine di esecuzione di quella serata, che lo ricordo era il 21 dicembre del 1973. Rock and Roll, il bellissimo pezzo che ci siamo ascoltati. È uno dei grandi alfieri del rock and roll americano, risponde al nome di Bob Seger, In questo doppio album che si chiama Night to Night ci sono due canzoni con il rock and roll all'interno del titolo. Il primo è un rock and roll che non si può dimenticare, appunto Rock and Roll Never Forget, oppure questo rock and roll vecchio stile che ci andiamo ad ascoltare, è il tutto registrato ai Boston Garden il 5 ottobre del 1980. Bob Seger con la sua Silver Bullet Band, All Time Rock and Roll. We'll be right back. mean, go to bed with everybody that you meet. Cause everybody knows you're a bed hopping up with intelligence in your feet. You're just a rock and roll queen, you know what I mean. I'm just a rock and roll star. So stupid when I call your name out loud. Cause everybody knows you're a cute little thing with intelligence and you know how. I wouldn't want anyone else to know about the way you really are. You're just a rock and roll queen, you know what I mean. I'm just a rock and roll star. Un'altra grande band britannica, quella di Motley Hoople, che molti ricorderanno per la All the Young Dudes che David Bowie regalò loro, ma all'interno del proprio repertorio avevano dei brani veramente notevoli, tipo questo che ci siamo ascoltati, si chiama Rock and Roll Queen. Loro, Motley Hoople, sono stati attivi dal 1969 al 1980, ma poi nel corso degli anni fino ai nostri giorni hanno fatto diverse riunioni un po' estemporanee, piccoli tour o piccoli un paio di concerti qua e là. Questa Rock and Roll Queen è stata registrata al HMV Hammersmith Apollo, in quel di Hammersmith a Londra, il 1 ottobre del 2009, con la line-up originale, che comprendeva Verden Allen, Dale Griffin, Ian Hunter, Mike Ralphs, Owen Watts. Magari molti di questi nomi non vi diranno niente, ma quello di Ian Hunter dovrebbe essere abbastanza significativo. Il tutto, come dicevo, che è stato registrato il 1 ottobre del 2009 ed è contenuto in questo doppio dischetto di una casa discografica che purtroppo non esiste più, e si chiamava Concert Live, che registrava i concerti, vendeva la registrazione subito dopo il concerto, ma rimanevano sempre delle copie da vendere in giro. Una di queste è quella che mi è pervenuta e che fa veramente faville. A proposito di Lou Reed, loro fanno anche una cover di Sweet Jane, che è quella che sta andando in sottofondo. Comunque cambiamo discorso, andiamo a concludere questa prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi, 11 ottobre 2023, con la rock and roll band per eccellenza. Io ci metterei di fianco anche l'A Street Band, ma questo è un discorso personale e di parte. Loro si chiamano Rolling Stones, il buon Keith Richards, che secondo me è l'impersonificazione del rock and roll. Se mi chiedessero dammi un'immagine del rock and roll, direi la faccia di Keith Richards, e sono praticamente sicuro di non sbagliare. Keith Richards, insieme al suo socio di malefatte e di scrittura di canzoni, ne ha scritta una che è abbastanza esplicativa e che va a concludere questa prima parte della trasmissione. Si chiama It's Only Rock and Roll, But I Like It. called Shockwave. Sunshine girl, but she had to paint the whole thing black. And now I'm back in the city. The lights are up on me. He's trying to keep me locked away, but hallelujah, I feel free. All your darkness has come back to you in time. Embrace your soul. You backstabbed all your friends, and yes, it's all about you and Paul now. So don't you dare look my way to try to make you cry. I don't have to do a thing to you, cause it's coming from the starry sky. All your darkness has come back. Embrace yourself, well, it's about to blow your mind. It's coming around like a shockwave. Hey, it's coming around like a shockwave. Hey, you play the game too many times. You're gonna burn so you behave. Hey, and maybe this shame will open your eyes. It's coming around like a shockwave. Liam Gallagher, il titolare della novità che vi propongo quest'oggi, suo nuovo album live si chiama Nebworth 22, è stato registrato, come dice il titolo stesso, lo scorso anno, il 3-4 giugno, in questo super mega parco che ospita sempre concerti con folle oceaniche ad ascoltare l'artista o la band di turno. Si chiama Shockwave, il brano che ha aperto la seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, 11 ottobre 2023. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che come sempre ospita Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade, anche se oggi avremo una Recorded Today un po' anomala, dopo vi spiegherò perché. E ci sono tantissime cose appunto registrate, anche se c'è un buco di cui vi parlerò dopo. E iniziamo dal 1968. Credo che Mr. Jimmy Marshall Hendrix non abbia bisogno di nessuna presentazione, dirò solamente che lui veniva da Seattle, stato di Washington, e che è morto il 18 settembre del 1970. Winterland, per meglio dire Live at Winterland, fu un CD che fu pubblicato nel 1987, un CD singolo, ma nel 2011, esattamente nel settembre del 2011, fu pubblicato un cofanetto di 4 CD che si chiamava semplicemente Winterland, che racchiudeva i concerti effettuati in quel locale di San Francisco il 10, 11 e 12 di ottobre del 1968, appunto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato per forza, no? L'11 ottobre del 1968 e dicevo sono 4 CD, uno per ogni concerto, 10, 11, 12, il quarto raccoglie i rimasugli degli altri 3 concerti, è un mix di brani dai 3 concerti precedenti. Quello che ho scelto per voi, per forza, come vi dicevo, è l'11 ottobre, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano firmato Jimi Hendrix, anche se sembra un blues super classico, è un lunghissimo, dolcissimo, bellissimo blues. Ho detto lunghissimo, per cui potete tranquillamente tranquillamente sedervi, rilassarvi e ascoltare questa splendida Red House Jimi Hendrix Experience. see my baby. And about, let's see now, 99 1/2 day. That's all right. It's about time to see her. Wrong, really wrong. Sister Will. Let me say it right. Oh, Sister Will. Uno dei pezzi che ha creato il mito di Jimi Hendrix si chiama Red House, era registrato per l'occasione al Winterland di San Francisco l'11 ottobre del 1968, tratto da questo quadruplo cofanetto consigliatissimo, perché Jimi Hendrix non si discute. Because you're not seeing any thing that's been rehearsed and all that, everything we're doing. E adesso arriva il problema. Siamo negli anni 70 e a mia conoscenza non c'è niente di registrato in questo giorno negli anni 70, in tutti gli anni 70. E ci sono tantissime registrazioni di quella decade, ma per quel che riguarda l'11 ottobre non c'è niente, almeno a mia conoscenza. Siccome non sono onnisciente, se qualcuno di voi invece conosce registrazioni effettuate in questo giorno, è pregato di mandarmi un SMS, un WhatsApp o un Telegram al 333 1809 494. Lo ripeto, 333 1809 494, per ogni informazione su registrazioni live effettuate l'11 ottobre nel corso degli anni 70. Noi andiamo avanti, passiamo direttamente agli 80, quindi con un grande personaggio, una grande artista che risponde al nome di Melissa Etheridge. È una cantante che arriva dal Kansas, cantante chitarrista, che oltre a essere una grande musicista, una grande performer, è anche un'icona per tutto il movimento LGBTQ e tutto quello che ne segue. Lei è stata una delle prime nel campo della musica rock a fare coming out, e da lì è diventata un mito per tutti coloro che appartengono a questo tipo di classificazione, che però non lascia sempre il tempo che trova. Comunque andiamo ad ascoltarcela adesso in una delle prime registrazioni live della sua carriera, registrato a Roxy di Hollywood, Los Angeles, naturalmente, nell'ottobre del 1988, esattamente l'11, il brano, uno dei suoi classici, si chiama Bring Me Some Water. I would like to thank all of you. Let me tell you, like, once again, there's nothing like coming home to Los Angeles. I feel so weak, but all in love is fair. Two in the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. See my babies. This aching pass. Will this night be through? I wanna hear the breaking glass. feel the steel of the red cheeks. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity, that temporary kind. Tell me, how will I ever, ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Come dicevo, grande personaggio ma anche grande artista, Melissa Etheridge, che abbiamo ascoltato in questo brano che si chiama Bring Me Some Water, un extended play in CD, fra l'altro è per la cronaca il terzo CD che ho comprato nella mia vita. In quel di Monaco c'era un negozio bellissimo che si chiamava World of Music, pieno di cose, di album, di CD, di tantissime cose da comprare. Purtroppo non esiste più, ma rimane questo mini album che, come vi dicevo, è una delle prime uscite discografiche live di Melissa Etheridge, il tutto registrato l'11 ottobre del 1988. I'm Gli anni 90 sono rappresentati da questa canzone che rappresenta appieno il tempo che stiamo vivendo. Si chiama No Rain, anche se pare sia prevista per sabato, ma questo è un altro discorso. E No Rain è il brano più famoso sicuramente di una band che si chiama tuttora Blind Melon, ma che è una cosa diversa da quella che era ai tempi nel 1995. Infatti questa registrazione vede ancora alla voce Shannon Hoon, il cantante di questa band, che è stata attiva dal 1990 fino al 1999, poi nel 2006 si è riformata fino ad oggi, ma come vi dicevo è una cosa è una cosa diversa dalla band che vedeva appunto Shannon Hoon con il microfono in mano. Loro venivano da Los Angeles e Shannon Hoon morì a 28 anni della classica overdose, ha scagliato di un anno il club dei 27, ma questo è un discorso che non prosegue. Il tutto è stato registrato al Palace di Hollywood, California, e infatti l'album si chiama Live at the Palace. Era l'11 ottobre 1995, No Rain, il brano che vi ho proposto. Una delle band più, secondo me, degli ultimi anni, uno degli ultimi epigoni, credo si dica così, del progressive britannico. È una band che è stata fondata da Steven Wilson nel 1987. Inizialmente fu il suo progetto solista, ma poi a lui si unirono diversi musicisti e insieme divennero Porcupine Tree. Dopo alcuni anni di scioglimento, nel quale il buon Steven Wilson ha percorso una strada in solitario, con una carriera solista che gli ha dato molte soddisfazioni, sia come musicista che come colui che remixa i brani e gli album del passato, ha remixato praticamente l'intera discografia degli Yes, dei King Crimson e di tanti altri. Porcupine Tree sono tornati insieme un paio di anni fa, insieme a lui ci sono sempre i suoi bracci destri, diciamo così, Richard Barbieri alle tastiere, che era il tastierista di una band che si chiamava Japan, Gavin Harrison alla batteria, che alcuni di voi ricorderanno e avranno visto insieme ai King Crimson. Porcupine Tree hanno fatto molte cose dal vivo, molti album dal vivo, molti sono venduti direttamente sul loro sito e solamente sul loro sito, per cui fateci un salto. Arriving Somewhere, il doppio CD più Blu-ray che vi propongo oggi, è stato registrato al Park West di Chicago l'11 ottobre del 2005. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Don't Hate Me, non odiatemi. Thank you. è stato registrato al Park West di Chicago, Illinois, Stati Uniti, l'11 ottobre del 2005. Questo Rhyming Somewhere, doppio CD più Blu-ray, a dire il vero, da parte di Porcupine Tree. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Don't Hate Me. A concludere Record Today, anomalo di oggi, e a concludere anche Città Fujiko Live Club, arriva Mr. Jason Isbell, un personaggio, cantante chitarrista che arriva dall'Alabama e che è attivo come solista insieme alla sua band d'accompagnamento. Infatti il titolo, cioè il nome completo, sarebbe Jason Isbell and the 400 Unit, e l'unità 400. Diceva, è attivo dal 2007 come artista solista, perché prima, dal 2001 al 2007, ha fatto parte di quella grande band che risponde al nome di Drive-By Truckers. Poi si è messo in proprio e le sue quotazioni sono state costantemente in ascesa. Anche adesso è uno dei nomi principali del panorama musicale americano, di un certo tipo di panorama musicale americano. Fra parentesi, proprio in questi giorni è stato ripubblicato, anzi pubblicato, la versione decimo anniversario di uno dei suoi album più famosi, che si chiama Southeastern. È stato pubblicato il 29 di settembre, in formato 3 CD, l'ultimo dei quali è dal vivo. Sicuramente lo accaparrerò, lo farò mio e ve lo proporrò in una delle prossime trasmissioni. Ci andiamo ad ascoltare questo album, che è stato registrato in uno dei locali storici di tutti gli Stati Uniti. Credo, se ricordo bene, che sia il teatro più antico degli Stati Uniti, è a Nashville in Tennessee. Si chiama Live from the Ryman, il titolo dell'album per cui è stato registrato a Ryman. Prima di andare, però, vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, e visto che chiaramente sono già in ritardo, andiamo subito con questo Jason Isbell and the suoi 400 Unit, non prima però di avervi dato appuntamento mercoledì prossimo. Il brano che ho scelto per voi si chiama Cover Me Up e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Finisce così la puntata della trasmissione di oggi. Ciao a tutti da Nevio. A hand on the gun, can't trust anyone. I was so sure what I needed was more. Tried to shoot out the sun. Days when we raged, we blew off the page. Such damage was done. But I made it through, 'cause somebody knew I was meant for someone. Girl, leave your boots by the bed. We ain't leaving this room. 'Cause your faith to the test when I tore off your dress in Richmond on high. But I sobered up, I swore off that stuff forever this time. till you came along. Good.